ad alta voce. Enzo Turrin legge Jacob von Gunten di Robert Walser, traduzione di Emilio Castellani. Undicesima puntata. Grazie alla cortesia di Johann ho fatto una quantità di conoscenze. Fra queste vi sono degli artisti che, a quanto sembra, sono persone simpatiche. Ma che giudizio si può dare in base a contatti così fuggevoli? In realtà è terribile come le persone che aspirano al successo mondano si assomiglino tutte. Hanno tutte le stesse facce. In realtà no, eppure sì. Hanno in comune una certa gentilezza che si dilegua rapida come il turbine. E il loro vero sentimento, io credo, è l'ansietà. Rapidi maneggiano uomini e oggetti, solo per poter subito sistemare quello che di nuovo sembri esigere uguale attenzione. Sono bravissima gente che non disprezza nessuno e tuttavia, forse, disprezzano ogni cosa, ma non possono lasciarlo capire, e non già perché temano di commettere tutt'a un tratto un'azione imprudente. Sono gentili per disperazione, amabili per ansietà. E poi c'è questo, che ciascuno pretende di tenersi in alta stima. Sono tutti gentiluomini e sembrano non sentirsi mai completamente a loro agio. Chi può sentirsi a suo agio quando dà valore alle testimonianze di stima e di distinzione del mondo? E poi, credo, le persone di questa specie, dato che non sono più creature di natura, ma della società, si sentono sempre tallonate da un successore. Ciascuno avverte la presenza sinistra del sopraffattore, del ladro furtivo che se ne viene alla chetichella, munito di chissà quali nuove capacità per disseminarsi intorno ogni sorta di disastri e di discapiti. E per questo motivo il nuovo venuto è sempre, in quegli ambienti, l'essere ricercato e prediletto fra tutti. E guai agli anziani se quel nuovo si distingue in qualche modo per spirito, talento o doti naturali. Forse è troppo semplice questo mio modo di esprimermi. C'è dell'altro, in verità. In codesti ambienti della cultura progredita domina un innegabile, inequivocabile senso di stanchezza, non già l'atteggiamento formalmente sofisticato che distingue, ad esempio, la nobiltà di sangue, no. Una vera, un'autentica stanchezza, basata su una sensazione più alta e più viva, la stanchezza dell'uomo sano malsano. Sono tutti istruiti, ma che stima hanno uno per l'altro? Sono, se riflettono onestamente, contenti del posto che occupano nel mondo. Ma sono poi contenti? Tra loro vi sono, d'altronde, anche dei ricchi. Di costoro non parlo, poiché il denaro che un uomo possiede costringe a premesse del tutto diverse, del tutto nuove, chi voglia dare un giudizio su un tale uomo. Sono comunque tutte persone affabili e a loro modo notevoli, e io devo essere grato, molto grato a mio fratello per avermi fatto conoscere uno squarcio di mondo. Lì, voglio dire, in quegli ambienti, ci si compiace già a chiamarmi il piccolo von Gunten, per distinguermi da Johann che hanno battezzato il grande von Gunten. Sono scherzi. Il gran mondo, si sa, ama gli scherzi. Io no. Ma questo non ha alcuna importanza. Sento quant'è scarso il mio interesse per ciò che si chiama mondo e come invece mi appare grande e affascinante quello che nel più profondo silenzio chiamo mondo io. Con tutto ciò, mio fratello si è dato parecchio da fare per condurmi tra la gente ed è mio dovere tenerne molto conto. E molto è, in verità. Tutto è molto per me. Anche la minima cosa. Far conoscenza completa con qualche persona è tale impresa da richiedere la vita d'un uomo. Anche questi sono principi dei beniamenta e pensare quanto poco assomigliano i beniamenta a ciò che il mondo significa. Ho voglia di andare a dormire. Non mi scordo mai che sono un discendente che incomincia dall'ultimo, dal più infimo gradino, senza però possedere le qualità necessarie ad arrivare in cima. O forse sì. Tutto è possibile, ma non credo alle ore di vanità in cui mi lusingo di raggiungere la fortuna e lo splendore per soprappiù. Non ho davvero le virtù dello scalatore sociale. A volte sono sfacciato, ma solo perché mi va di esserlo. Caratteristica dello scalatore è invece una sfacciataggine permanente camuffata da modestia, oppure uno sfacciato insistentemente sfacciato, atteggiarsi a insignificanza. E di questi scalatori ce ne sono molti, e si aggrappano da stupidi a ciò che han conquistato, e questo è motivo di distinzione. Possono anche essere nervosi, sdegnosi, bisbetici, stanchi di ogni cosa, ma nel vero scalatore sociale la noia non ha radici profonde. Sono dei padroni, e di un padrone così, di un padrone forse un po' burbanzoso, io, figlio di nobile stirpe o che altro mi sia, sarò il servitore. Lo servirò onorevolmente, fedelmente, fidatamente, incrollabile come un automa, privo di interesse per qualsiasi vantaggio personale, perché solo a codesto modo, cioè in modo inappuntabile, io potrò eventualmente servire qualcuno. E ora mi accorgo di avere un'affinità con Kraus e quasi me ne vergogno un poco. Chi si pone di fronte al mondo con sentimenti simili ai miei mai e poi mai potrà attingere a una condizione di grandezza, a meno di infischiarsene del luccichio della grandezza e chiamare grande ciò che è invece grigio, muto, duro e basso. Sì, io servirò, mi sobbarcherò in perpetuo obblighi il cui adempimento sarà tutto fuorché brillante, sempre e in ogni caso, e arrossirò di felicità come l'ultimo degli idioti a ogni grazie che mi sarà gettato a fior di labbra. È stupido, ma è la pura verità. E non riesco a rattristarmi di questa certezza. Devo riconoscerlo, non sono mai triste, non mi sento mai, assolutamente mai solo, e anche questo è idiota, perché è la sentimentalità. È quello che si usa a chiamare il grido, che permette di fare i migliori affari, i più avvantaggianti, i più confacenti. Ma le fatiche, gli sforzi grossolani che ci vogliono per raggiungere in questo modo onori e fama, non sono fatti per me. A casa nostra, vicino al babbo e alla mamma, il buon gusto trapelava perfino dai muri. Ecco, io so intenderla solo così. Da noi, a casa, tutto era fine. È talmente chiaro, come se nell'ambiente ogni cosa sorridesse di grazia e di benignità. La mamma già è tanto chic. Basta. Dunque, figlio di nobile famiglia è condannato a servire e a rivestire nel mondo funzioni di sesto ordine. A mio avviso così sta bene, perché, come diceva Johann, i potenti sono i veri affamati. Non mi piace credere a queste cose, e del resto che bisogno ho di consolazione? Un Jacob von Gunten può essere consolato? Finché sarò in salute non se ne parla neppure. Se voglio, se mi raccomando, posso onorare qualsiasi cosa, compreso il cattivo contegno, ma allora deve rigurgitare d'oro. Purché le brutte maniere si lasciano piovere alle spalle delle monete da 20 marchi, posso inchinarmi al loro passaggio e magari anche dopo. Lo stesso signor Beniamenta è di quest'opinione. Non è giusto, dice, disprezzare il denaro e i vantaggi che si ricevono da mani poco attraenti. Anzi, un allievo dell'Istituto Beniamenta deve per lo più apprezzare, non disprezzare. Parlando d'altro, com'è bella la ginnastica. Mi piace enormemente, ben inteso sono un bravo ginnasta. Stringere amicizia con un'anima eletta e fare ginnastica. Ecco, due delle più belle cose che il mondo può offrire. Ballare e trovare una persona che susciti la mia stima è per me una sola e unica cosa. Mi piace talmente mettere in moto lo spirito e le membra. Basterebbe dimenare le gambe. C'è niente di più bello? Anche la ginnastica è stupida, anch'essa non conduce a nulla. Deve essere proprio destino che tutto quel che mi piace, che prediligo, non conduca a nulla. Ma attenti, che c'è? Mi chiamano, devo smettere. Sei sempre solerte al lavoro, Jacob? Mi ha chiesto la nostra insegnante. Era quasi sera e da qualche parte si vedeva una luce rossastra, come il riflesso di un tramonto grandioso. Eravamo presso l'uscio della mia cameretta. Io stavo per entrarci, desiderando abbandonarmi un po' ai miei presagi. «Signorina Beniamenta», risposi, «come può dubitare della serietà e della sincerità del mio zelo? Sono forse un bugiardo? Un cialtrone? Ai suoi occhi che venero tanto?» Avevo un'aria tragica, credo, nel mentre le rispondevo. Ella rivolse a me il suo bel viso e disse: Ma no, sei un caro ragazzo. Sei vivace, sì, ma ti trovo simpatico, dritto, cortese e piacevole. Contento, eh? Dimmi, continui sempre a rassettare per bene il tuo letto ogni mattina? No? Ed è anche un pezzo che non osservi più tutti i regolamenti? Neppure? O invece sì? Oh, sei un tipo proprio per bene, ne son certa. E non ti si può abbastanza inondare di lodi. Mai abbastanza. Secchi, interi, pieni di elogi insinuanti, pensa, interi mastelli, intere caraffe. Bisogna spazzarla via con la scopa tutta quella massa di belle parole e di riconoscimenti di buona condotta. No, Jacob, ora parlo sul serio, ascoltami. Devo dirti una cosa all'orecchio. Vuoi sentirla o preferisci rifugiarti in camera tua? Parli, signorina. L'ascolto, risposi, pieno di attesa angosciosa. Improvvisamente la maestra ebbe come un brivido, ma si riprese presto e disse: «Me ne vado, Jacob, me ne vado. Per me è la fine, ma non posso dirtelo. Un'altra volta, forse. D'accordo? Sì, è vero. Forse domani, oppure fra 8 giorni. Avrò sempre tempo di dirtelo. Dimmi, Jacob, mi vuoi un po' di bene? Significo qualcosa per il tuo petto? Per il tuo giovane cuore?» Ella mi stava di fronte, le labbra irosamente serrate. Mi chinai rapido verso la sua mano che pendeva con indicibile malinconia lungo la sua veste e la baciai. Com'ero felice di poterle dire ciò che avevo sempre sentito per lei. «Hai stima di me?» mi domandò con voce sottilissima, già quasi soffocata dall'acutezza, come morta. Io dissi: «E può dubitarne? Mi sento disperato». Ma avevo voglia di piangere e ne ero furioso. Lasciai andare bruscamente la sua mano e assunsi un atteggiamento di rispetto. E lei, guardandomi con aria quasi implorante, si allontanò. «Come tutto è cambiato in questo istituto Beniamenta, un tempo così dispotico. Ogni cosa, esercizi, prontezza, regolamenti, sembra raggrinzirsi. Vivo in una casa di morti oppure di gioie e di voluttà ultraterrene. È successo qualcosa, ma non riesco ancora ad afferrarlo». Mi sono arrischiato a esprimere di fronte a Kraus un'osservazione a proposito dei Beniamenta. «Qualcosa, ho detto, mi sembrava fosse venuto a stendere come un velo sulla luce che era sempre emanata dall'istituto. Che cosa poteva essere? Kraus ne aveva forse un'idea?» Lui andò subito in collera. «Amico», disse, «cosa sei? Incinto di cretinerie? Che idee? Datti da fare, lavora, e mi dirai se non la smetti di vedere cose straordinarie. Un segugio, mi sembri, che vada in giro annusando pareri e opinioni. Sparisci dalla mia vista, ci manca poco che non possa più sopportare di vederti». «Da quando sei diventato così villano?» risposi, ma preferii lasciarlo in pace. Nel corso della giornata ebbi poi modo di discorrere di lui con la signorina Beniamenta. Ella mi disse: «Sì, Kraus non è come gli altri. Se ne sta a sedere finché qualcuno ha bisogno di lui. Quando poi lo si chiama, si mette in moto e arriva ad un balzo. Degli uomini del suo genere non si fa gran vanto né caso. Nessuno canta mai le lodi di Kraus, a malapena gli si è grati. A lui si può chiedere soltanto fa questo e poi fa quest'altro e ci si accorge a malapena di essere stati serviti e in modo perfetto, tanto è perfetto il suo servizio. Kraus come persona è nulla, solo l'artefice, l'esecutore Kraus è qualche cosa, ma come tale non si fa notare da nessuno. Tu, Jacob, per esempio, vieni elogiato. La gente è contenta di farti piacere. Per Kraus nessuno ha in serbo una parola, un'attenzione. In confronto a Kraus, tu, Jacob, sei veramente un disutile. Però tra i due sei il più simpatico. Con altre parole non voglio dirtelo perché non sapresti capirlo. E Kraus presto ci lascerà. Sarà una perdita, Jacob, una gran perdita. Quando qui non ci sarà più un Kraus, chi ci sarà? Tu? D'accordo. Questo è pur vero e adesso sarai arrabbiato con me, no? Sì, sei arrabbiato con me perché sono addolorata dalla partenza di Kraus. Sei geloso. No, certo, anche a me duole grandemente che Kraus ci lasci, risposi, usando a bella posta un tono molto compassato. Provavo anch'io dispiacere, ma mi parve dignitoso mostrare una certa freddezza. Più tardi tentai di entrare in discorso con Kraus, ma egli assunse un'aria incredibilmente distaccata. Sedeva aggrondato al tavolo, senza rivolgere la parola ad alcuno. Anche lui si accorge che qui qualcosa non va bene, solo non dice niente. Lo dice solo a se stesso. A volte ho l'impressione di una grande sconfitta intima. Allora mi pongo in mezzo alla stanza e mi abbandono a degli eccessi, eccessi ben infantili del resto. Mi metto in testa il berretto di Kraus, oppure un bicchiere pieno d'acqua e simili. Oppure c'è Hans, e con lui ci si può divertire a lanciarsi a vicenda i cappelli in testa in modo che vi restino fermi. Non parliamo del disprezzo di Kraus per questi spassi. Schacht ha avuto un impiego durato 3 giorni, ma poi è rientrato, pieno di amarezza e di ogni sorta di giustificazioni rabbiose e dolorose. Non l'avevo già detto che Schacht sarebbe fallito a contatto col mondo? In qualunque ufficio, incarico o impiego, non riuscirà mai a districarsi. Non potrà mai trovarcisi bene. Adesso va dicendo che aveva un lavoro troppo difficile e racconta di gente perfida, malvagia e pigra che gli era più o meno preposta e che fin dal principio si sarebbe messa a vessarlo affidandogli compiti illeciti, a tormentarlo bestialmente e a raggirarlo. Oh, gli credo a Schacht. Gli credo anche troppo, ossia, ritengo che quello che dice sia assolutamente vero. Perché è inconcepibile come di fronte ai tipi morbosamente sensibili il mondo possa essere zotico, dispotico, capriccioso e crudele. Per il momento Schacht resterà qui. Al suo ritorno lo abbiamo un po' canzonato, è logico. Schacht è giovane e non deve poi credere di aver diritto a speciali gradi, privilegi, trattamenti o riguardi. Stavolta ha conosciuto la sua prima delusione e ne conoscerà almeno altre 20. C'è da giurarlo. La vita con le sue leggi feroci per certe persone è solo una catena di sconforti, di esperienze talmente cattive da atterrire. Il destino degli esseri come Schacht è quello di un'incessante, dolorosa ripugnanza. Vorrebbe riconoscere i meriti, vorrebbe poter accogliere le cose con gioia, ma è proprio questo che non può. La durezza, la spietatezza si fa 10 volte più dura e spietata con lui, proprio perché la sua sensibilità è tanto più acuta. Povero Schacht, è un bambino. Dovrebbe poter guazzare tra onde di melodie, avvilupparsi in sensazioni buone, morbide, spensierate. Dovrebbe procedere tra fruscii segreti di acque, tra cinguettii d'uccelli, dolci, pallide nuvole di cielo serale, dovrebbero trasportarlo nel regno del... Ah, che mai provo? Le sue mani sono adatte a lievi gesti, non al lavoro. Davanti a lui dovrebbero spirar brezze e alle sue spalle sussurrare dolci voci amiche. I suoi occhi dovrebbero poter restare beatamente chiusi. E Schacht dovrebbe potersi riaddormentare tranquillo quando si svegliasse al mattino fra il tepore voluttuoso dei cuscini. Per lui, in fondo, non esiste attività adeguata, poiché ogni occupazione è inadeguata, innaturale e disadatta per lui, dotato di un simile aspetto. Di fronte a Schacht, io non sono che un corpacciuto famiglio. Ah, stritolato, finirà stritolato, e un giorno si spegnerà in un ospedale, oppure languirà, guasto nell'anima e nel corpo, in qualcuna delle nostre modernissime carceri. Adesso va a rannicchiarsi qua e là negli angoli dell'aula, vergognoso e tremebondo davanti alle prospettive per lui repellenti di uno sconosciuto avvenire. La signorina lo guarda impensierita, ma adesso sono i fatti suoi che la preoccupano troppo perché possa badare molto a Schacht. E del resto non avrebbe modo di aiutarlo. Un dio, forse, dovrebbe e potrebbe riuscirci, ma non vi sono dei. Ve n'è solo uno e questo sta troppo in alto per essere d'aiuto. Aiutare e alleviare non è cosa che si convenga all'Onnipotente. Io almeno la sento così. Ormai la signorina Beniamenta scambia ogni giorno qualche parola con me, sia in cucina, sia nei momenti in cui l'aula è vuota e silenziosa. Kraus si comporta come se dovesse aspettare ancora una decina d'anni prima di lasciare l'istituto. Freddo e instancabile studia le sue lezioni, o per meglio dire con aria annoiata, ma è l'aria che lui ha sempre avuto e perciò non conta. Quest'essere non è capace di alcuna precipitazione, di alcuna impazienza. Aspettare è il motto che sembra scritto quasi in rilievo sulla sua fronte. Sì, la signorina una volta l'ha detto. Ha detto che in Kraus c'è qualcosa di elevato, ed è vero. La totale inappariscenza del suo essere ha un non so che di occultamente imperioso. Ieri osai dire alla mia signorina: se una volta, un'impercettibile unica volta, mi sono mostrato a lei più arrogante che avvinto dai ceppi e dai sensi del più puro rispetto, mi odierò, mi perseguiterò, mi impiccherò a lacci, mi avvelenerò coi veleni più micidiali, mi sgozzerò con ogni pensabile specie di coltelli. No, signorina, non è possibile. È impossibile che io l'abbia mai offesa. Bastano i suoi occhi, il comando, la legge nella sua intangibile bellezza. Ecco ciò che essi sono stati per me. No, no, non dico bugie. Il suo apparire alla porta. Mai qui dentro ho sentito bisogno di un cielo, mai della luna, del sole o delle stelle. Lei è stata la mia più alta apparizione. Sto dicendo la verità, signorina, e ritengo che lei si accorga che non v'è traccia di adulazione nelle mie parole. Odio ogni possibile futuro benessere. Esecro la vita. Sì, sì. Eppure dovrò presto anch'io andarmene come Kraus. Dovrò affrontare la vita e la sua odiosità. Lei è stata per me la salute del corpo. Se leggevo un libro, era lei che leggevo, non il libro. Lei era il libro. Davvero, davvero. Spesso mi sono condotto da maleducato e a volte lei ha dovuto mettermi in guardia contro l'orgoglio che voleva divorarmi, che voleva seppellirmi sotto le macerie di insane immaginazioni. Ed eccolo a terra, precipitato a terra. Con quale intensità ascoltavo quello che la signorina Beniamenta mi diceva. Sorride? Ah sì, quel sorriso. Che stimolo verso il buono, il virtuoso, il vero è sempre stato per me. Quanta bontà ha saputo sempre dimostrarmi, troppa, troppa, per un testardaccio par mio. e davanti al suo sguardo i miei molti difetti si prosternavano implorando pietà, giù, giù, ai suoi ginocchi. No, non voglio andarmene verso la vita, andarmene verso il mondo. Disprezzo tutto dell'avvenire. Quando lei entrava nella stanza ero contento e subito dopo mi davo dello stupido. Pensi, spesso mi è venuta, sì, glielo devo confessare, la tentazione segreta di rapirle la sua dignità, la sua grandezza, ma per quanto mi fustigassi il cervello non riuscivo a trovarvi una parola, neppure la più piccola, minima parola d'offesa e di denigrazione per ciò che avrei voluto almeno un poco oltraggiare. E ogni volta rimorso e inquietudine venivano a punirmi. Sì, sempre, signorina, sempre ho dovuto venerarla. La irritano queste mie parole? Io per me sono contento di dirgliele queste parole. Lei mi guardava ammiccando e sorrideva. Mi prese un po' in giro, ma era davvero contenta. Inoltre me ne accorsi. Il suo pensiero era occupato in qualcosa di distante. Era come assente in spirito e per questo, solo per questo, ho osato parlarle a quel modo. Mi guarderò bene dall'osarlo ancora.